incosciente da quando sono nato, cresciuto al parchetto sotto casa, stato battezzato con Martini e Burbuca, ho fumato, ho bevuto, poi mani sulla nuca, cosciente di essere incosciente per quel che ho fatto, che faccio con sta faccia, sembro sano, ma strano che io bevo alcol vero, mica te, come se qualcuno ci credesse. Spesse volte vedo tutto girare, perché spesse volte son portato a esagerare. Fumare, scraccare, pippare, impastare, bere, sboccare, ormai ho fatto tutto, distrutto. Incoscienza è quello che avrò. Bevi, bevi, bevi, bevi, bevi, bevi. Fuma, fuma, fuma, fuma. Incoscienza è quello che avrò. Bevi, bevi, bevi, bevi, bevi, bevi, bevi. Sono incosciente, sono incosciente. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Sano incosciente, le donne, la gente, gli amici, gli scazzi, le botte ai murazzi, i tagli, i coltelli, i capelli rasati, davvero bastardo, abbassa lo sguardo. Poi con il rap tu lo sai, io mo flippo, se parli con me, capo stai zitto. Wow, ho fatto tutto, di tutto, ripeto, di tutto, ripeto. Ho perso la ragione, ho il fegato in carpione, ho scritto il copione con sopra il mio nome, la storia di un campione con la P di padrone, leggilo bene, P easy, la Torino bene. Incoscienza è quello che avrò. Bevi, bevi, bevi, bevi, bevi, bevi. Sano il mondo, io non lo sono. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma. Incoscienza è quello che avrò. Bevi, bevi, bevi, bevi, bevi, bevi. Sono incosciente, sono incosciente. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma.